Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Una nuova settimana, ed è la settimana numero 8 di Ecletica, iniziata effettivamente ieri con la prima pillola, proseguita oggi con la seconda pillola, ed eccoci qua con la prima delle quattro Ecletica serale alle ore 22. Presente via etere tutte le sere, tranne il lunedì, fra dirette e repliche, sempre alle 22. Poi l'orario e il luogo lo scegliete voi, nel caso vi siate avvalsi del podcasting. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni. Gli indirizzi, come al solito, in inizio di trasmissione: giulio@radiorockfm.com per dialogare direttamente, ma anche per iscrivervi alla lista nera, nel caso ancora non lo siate, e myspace.com/ecletica. Poi se ne stanno creando spontaneamente degli altri sulla rete, come ho anche detto in mailing list durante il weekend. Per esempio, vi invito a cercare su Last.fm, potreste avere delle sorprese. Stinne ricorda benissimo le storie che papà raccontava sul preside Kramer e al pensiero rabbrividisce in silenzio. Poi sospira e guarda fuori dalla finestra dove Jasper sta potando alcuni cespugli con un paio di cesoie. Gli mancano diverse dita di entrambe le mani e ha difficoltà a stringerle. Anche se è gentile con me, mi sembra ancora un po' schivo. Non entra mai nella stanza degli ospiti, bussa educatamente e aspetta che venga ad aprirgli. Là dentro ho sistemato tutti i vecchi attrezzi che Askild usava per dipingere. Ne ho anche comprati di nuovi. Sebbene ci abbia messo meno di 24 ore a rientrare in Danimarca, le storie impiegano parecchio tempo a tornare a casa. Arrivano a una, di notte, a due, in sogni e visioni, che si stagliano all'improvviso sulla retina. Questo era l'incipit di Testa di cane, di Morten Ramslad. I would have had my chance to tell her, don't let them bastards get the best of you. I bet you got the strength to pull you through. If I had only had her number, would have called her up and talked to her. She could have told me how she's holding up. We would have talked about the days we had not long ago, and we were all so young, we know we did not know what to do or what to become. But look at us, girl, yeah, we're still young now. I know now we know now. To become, but look at us, girl, we're still Teresa, they were the best. L'ettica di questa settimana si è aperta con il bel esordio del norvegese Erlend Ropstad, l'album The Magnetic Tapes per la etichetta discografica Rec 90, dal quale ci stiamo ascoltando da qualche settimana a questa parte, Winona and I. E poi si è proseguito con un altro bel esordio, in questo caso però non sono nomi completamente nuovi, lo è sì il nome del gruppo Swan Lake, in uscita il 21 di novembre per Jack Jaguar con Beast Mourns, dal quale abbiamo estratto All Fires, ma al suo interno ci sono presenti Daniel Behar dei New Pornographers o Spencer Krug dei Wolf Parade. Eclettica che si è aperta con un incipit a confermare quanto l'uso dell'indirizzo giulio@radiorockfm.com possa essere utile a rendere migliore questa trasmissione, con un incipit che mi è stato segnalato da uno di voi, da un ascoltatore, ovvero sia Mario, che mi ha segnalato questo bel libro di Morten Ramslad, Testa di Cane, che ha aperto appunto Eclettica di questa settimana. Vi invito, per consigli, suggerimenti, critiche, anche semplicemente per lasciare un segno, nel caso non lo vogliate lasciare disponibile a tutti, quindi su MySpace, a utilizzare la casella di posta giulio@radiorockfm.com. Questo è l'indirizzo di riferimento. Ora cambiamo atmosfere musicali, ci spostiamo sull'album che stiamo ascoltando dalla scorsa settimana, il nuovo per la Lex dei Subtle, la band di Those One, For Hero, For Fool è il titolo dell'album, mentre The Mercury Craze è il titolo del brano. When last we left him, our hero, yes, was recently diagnosed in last harbor of a most unusual sort of blood. Who knew? Who quite surprised by the news himself, and still the genuinely unlucky man. His one and only body bag of this, his now very, very rare blood. And so we find him seated, not stopped. Serious bread, his evenings eats have been caught and bequeathed by the richest of rich, whose only child is especially sick. The fair scared paralyzed reading weak, yelling help across a good 200 feet. A set table, yours far full of ills, like perfectly still, like straight seems so few in the unique blood that became latest praise with the disparate world. Not get the wrong right idea. You're not on another episode so happening. You self-proprietor, all that priceless red wet. You self-proprietor, all that priceless red wet. Yeah! Senti, affamato, ne ho ammazzati per molto meno di animali come te, ma se vuoi una croce con un nome sulla fossa, dimmi come ti chiami. Mi chiamano Trinità. Trinità. La mano destra del diavolo. Rather Per loro le cose sono andate velocissime. Io ho ricevuto settimana scorsa, una decina di giorni fa, la busta dalla Suicide, in cui era contenuto il loro disco Public Tolls. Sto parlando dei The Banshee, gruppo genovese formato nel 2001, puro rock and roll, avete sentito, chitarra, basso e batteria. Perché vanno veloci le cose? Perché questa settimana è arrivata la notizia che sono una delle breaking bands scelte da NME, New Musical Express. Direi non male per un gruppo italiano, si parla sempre male del New Musical Express, ma però poi il patriottismo vince, no? Quando ci sono casi di questo tipo. Games People Play è il brano che vi siete ascoltati in Eclettica quest'oggi. E rimaniamo in Italia con un gruppo che ha caratterizzato Eclettica fin dagli inizi, dal 94, quando Eclettica ha aperto le sue trasmissioni sulle frequenze di Rock FM, arrivando con lo stesso nome da un'altra emittente radiofonica. Sempre stata tantissima attenzione a quelli che inizialmente erano solo dei demo, all'inizio neanche tanto belli, e in quel caso non erano stati trasmessi, di una band che arrivava dal lago di Garda e ho avuto la possibilità di vedere crescere a dismisura, per poi arrivare al successo sempre nella nicchia in cui si muovono i suoni di Eclettica. Però era non così stretta quella nicchia. Poi purtroppo hanno lasciato un grande rimpianto, quella di una delle più grandi band italiane di sempre. Potrei anche non presentarveli. Questo è un brano che risale al 1997. Era già qualche anno che Eclettica era presente sulle frequenze di Rock FM. Profumo di Eclettica. Andando a ripescare con Profumo di Eclettica nelle vecchie playlist di qualche anno fa, 1997 per la precisione, siamo quasi arrivati in chiusura per quanto riguarda la puntata di quest'oggi. Ci arriviamo con un disco dal titolo Desert Donuts, che non è una novità in questo caso, ma uno di quei tanti dischi che, pur avendo un certo valore, però sono rimasti lì in una sorta di ripiano, pronti per essere mandati in onda quando ce ne sarebbe stato lo spazio. Eccolo, è arrivato il momento dei Metallic Falcons, un duo al cui interno c'è Sierra Cassidy delle Coco Rosie. Desert Donuts, vi ho già detto essere il titolo dell'album. Metallic Falcons è il titolo di questo progetto, dal quale in chiusura di Eclettica ci ascoltiamo Airships. Eclettica. Fine della prima parte.